La zanzara con Luca Telese. Buonasera, eccoci qua, ultimo appuntamento della settimana e ultimo anche per quel che mi riguarda, quindi nostalgici della precedente gestione potranno stare tranquilli. Iniziamo subito a scaldarci perché ci sono i titoli del TG2. Nel canale di Sicilia in corso le ricerche di eventuali dispersi in mare, uno degli immigrati salvati accusa, una motovedetta maltese non ci ha soccorsi, la CEI, strage in mare, offesa per l'umanità. Afghanistan, scontro fra i candidati sull'esito del voto, Karzai sarebbe in testa ma Abdullah dice ho vinto io. Napolitano, elezioni importanti per la stabilizzazione del paese. Direttiva del ministro Maroni sugli autovelox, non ci saranno più pattuglie nascoste per la tutela della privacy, stop alle gestioni degli apparecchi di controllo affidate ai privati. Al via i pagamenti per regolarizzare colf e badanti, contributo di 500 euro per ogni lavoratore, le domande potrebbero essere 750.000, per ora nessuna coda negli uffici. Allora, eccoci zanzarando, tante cose di cui discutere, ma come sapete sempre incombono i titoli di Studio Aperto. Violenza sciocca alla sagra del paese, Arcinazzo, vicino a Roma. La vittima è una ragazzina di 16 anni, in manetta un romeno diciottenne. L'ha fatta bere, l'ha convinta a seguirlo, poi l'ha stuprata. Salvato dal linciaggio, è in cella a Rebibbia. Rave maledetti, esclusivo Studio Aperto, parla un ventenne pentito dei raduni illegali. Ci si va con l'idea dello sballo, lì è un supermarket della droga, racconta e lancia un appello ai genitori. Aiutate i vostri figli a non rimetterci la vita. Ancora sbarchi di immigrati a Lampedusa, pattugliamenti nel canale di Sicilia dopo la drammatica denuncia di 5 eritrei arrivati sull'isola in gommone. Altri 73 sono morti in mare, nessuno ci ha salvato. Via Ramadan siamo stati nei campi con i braccianti extracomunitari. Cominciamo a uscire dalla crisi, anche la Fed, la banca centrale americana, vede la ripresa. Ci sono buone prospettive, dice il presidente, che l'economia torni a crescere. Un cauto ottimismo che fa bene alle borse, a partire da Wall Street. Rivoluzione autovelox, mai più pattuglie nascoste, stop alla gestione affidata a società private. Lo prevede una direttiva del ministro Maroni. Ah, che bello, che bello, stop alle auto nascoste. So che qualcuno mi considera un esaltatore delle regole violate, però francamente i comuni che fanno la caccia, mettono il limite, poi mettono la pattuglia nascosta e poi incassano soldi, sono una delle cose più triste che io abbia sentite. Allora, abbiamo sentito i TG e torniamo al caso della donna di Verona allontanata dalla piscina comunale perché indossava il famoso, l'ormai famoso burkini, quella specie di scafandro. Credo che tutti voi abbiate sentito la notizia e immagino vi siete fatti un'idea in merito. Naya Retsky, al microfono del TG regionale del Veneto, ha detto qualcosa, sentiamola. Tunica, pantaloni e copricapo. È il burkini, il costume integrale islamico, il più famoso d'Italia dopo che in una piscina comunale di Verona i bagnini hanno detto a Najat di non fare il bagno vestita. Non era la prima volta che la donna marocchina, mediatrice culturale da 13 anni nel nostro paese, andava a nuotare in via Santini e nessuno aveva sollevato problemi. Cercavo di spiegarle che non è un vestito, è un costume da bagno che ha le stesse caratteristiche di un costume qualsiasi. Addirittura c'è chi ha parlato dei bambini che avevano paura. Ma assolutamente, è una scusa questa dei bambini perché francamente ho scambiato sorrisi con i bambini e nuotavo tranquillamente, anzi nuotavano con noi altri bambini e altri adulti. Mi hanno chiesto di portare l'etichetta per vedere le caratteristiche del costume. Cosa pensi di quello che è accaduto? La paura dei bambini, lo spavento, è una scusa per non comprendere che siamo diversi, ma possiamo convivere lo stesso e possiamo essere libere di scegliere come vogliamo vestire noi. Adesso tornerai in piscina col tuo costume? Ma certamente tornerò con i miei bambini. E allora sentiamo il ministro Ignazio La Russa, primo ospite di questa giornata, che ci aiuta a scandire la scaletta. Che cosa è successo? È successo che c'è stata una frase un po' forte di un dirigente del PD che ha detto che la festa dell'unità non era un festino e i ministri hanno annunciato che non andranno alla festa. È così, ministro La Russa? Beh, non è proprio esatto, non è una frase un po' forte. C'è stato un invito ad alcuni ministri, non c'è stato un invito al Presidente del Consiglio, fin qua mi pare che sia legittimo, ciascuno può invitare chi vuole. Dopodiché l'organizzatore ha richiesto del perché non c'era il Presidente del Consiglio, ha detto perché questa è una festa, non è un festino. Bella battuta sicuramente, meravigliosa, ma non si capisce come si possa pretendere la partecipazione dei ministri di un Presidente del Consiglio che viene dileggiato in maniera così pacchiana. Dopodiché non è che c'è stata la decisione dei ministri di non andare. Io ho sollevato il problema, ma non invitando i ministri a disertare, invitando Franceschini o chi per lui a prendere le distanze da chi aveva improvvidamente manifestato questa volgare accusa nei confronti del Presidente del Consiglio. E Lino Paganelli, il responsabile feste, che sì, però è un toscano dal temperamento forte. Ecco. Vabbè, sarà il temperamento finché vuoi, a maggior ragione bastava una frase di Franceschini o di chi per lui che dicesse è una sua posizione, una battuta, ma noi prendiamo le distanze, non condividiamo, non lo abbiamo invitato, ma invitiamo i ministri, quindi ci spiace, una cosa qualunque. Cioè. E invece, siccome hanno ormai un'assenza di senso di responsabilità, forse perché sono in competizione in vista del congresso e quindi sono attenti a non fare nulla che possa risultare sgradito a chi lei dice che è troppo morbido. All'antiberlusconismo, l'accusa di non essere abbastanza anti-Berlusconi, penso a te. E allora tutti zitti. A questo punto i ministri autonomamente, non certo perché gli ho chiesto io, hanno naturalmente, essendo rimbalzate sui giornali le mie dichiarazioni. Però l'idea è stata sua, è lei che ha lanciato il controordine. Io ho chiesto a Franceschini di prendere le distanze, non l'idea di non partecipare. È chiaro che ho immaginato subito che se nessuno prende le distanze, immagino che i ministri, una volta che scoprono sta cosa, e l'hanno scoperto mio tramite attraverso i giornali, e poi avranno difficoltà a partecipare. E così è stato, ma è evidente. Però senta una cosa, ministro La Russa, io la conosco da tanto tempo, la seguiamo, lei non è il tipo delle frasine politicamente corrette, cioè anche lei ha menato, diciamolo chiaramente. Infatti non mi sono offeso. E credo che neanche Berlusconi si possa offendere, però una cosa è la battuta, un'altra cosa è poi immaginare che non abbia conseguenze. Cioè, se tu fai una frasina del genere, non puoi, e c'è un errore di fondo nel pretendere o nell'imitare i giocatori di una squadra di calcio e insultare in maniera madornale l'allenatore o il capitano, cioè, della squadra o il presidente. Ma le feste non dovrebbero essere un po' il luogo del terzo tempo dove si discute, si dibatte, certo, ci si scontra questo, anche? Proprio per questo sarebbe bastata una frase semplice, normale. Ci dispiace di... Guardi, noi cerchiamo al volo Paganelli. Cosa dovrebbe dire Paganelli? Terese, io faccio adesso un nuovo appello tuo tramite. Diamo un segno, battano un colpo, facciano vedere che hanno senso di responsabilità, facciano vedere che il lavoro iniziato da Veltroni è troppo presto finito, di un partito normale. Adesso rimpiange Veltroni, La Russa. Sì, no, io l'ho sempre detto che la prima fase di Veltroni aveva acceso delle speranze importanti, quella di un confronto sui contenuti e non sul Berlusconi sì, Berlusconi no, sull'anti-berlusconismo di maniera. Purtroppo il primo a cedere è stato proprio Veltroni, quando ha deciso di imbarcare Di Pietro e non i socialisti, per dire, no? Non i suoi alleati naturali. Va bene, allora è lanciato questo appello. Rilancio l'appello. Basta una frasetta Non lo so, perché poi la scelta ormai... E La Russa lancia il controordine. No, io non ho dato ordine, non posso lanciare il controordine. Comunque lui... Sfido a un senso di responsabilità minimo. Io... che organizzo da non so quanti, 25 anni, non so neanche quanti sono. La festa di Milano. La festa di Milano, che anche quest'anno sarà la festa del PDL. Se uno dei miei collaboratori, organizzatori della festa, avesse detto abbiamo invitato Franceschini, che è un pirla. Abbiamo invitato Bersani, non Franceschini, perché Franceschini è un coglione, che so io, peggio, no? Perché Franceschini non lo vogliamo, perché tira le canne, si fa le canne, che so io, no? Perché una cosa del genere, no? Beh, io credo che Bersani non sarebbe venuto. Insomma. Va bene, allora lanciamo questa cosa, lei dà una possibilità, ci deve essere un passo. E ci vuole una bella dichiarazione. attenzione, un po' di cenere nella testa e via. Vediamo se arriveranno. Senta, invece le chiedo di chiudere un po'. Abbiamo sentito che lei invece ha detto delle parole forti sulla Lega. Cioè, alla Lega non dovrebbero più invitare degli esponenti di N, perché lei un giorno ha detto che Bossi poteva aver avuto un colpo di sole. No, non ho detto che Bossi ha avuto un colpo di sole, bisogna leggerle bene le dichiarazioni. I colpi di sole che, di Ferrara d'estate. La tesi di chi parlava di gabbie salariali era frutto del sole di agosto, ma Bossi ha precisato che lui parlava di salari territoriali, cioè non di una legge, certo, che noi con la quale si possa imporre delle differenze salariali. Che poi nella trattativa ci sia una trattativa territoriale, che gli aumenti dei salari possano anche essere territorio per territorio, in quella stessa occasione che ho detto quella frase ho detto che lo trovavo comprensibile. Senta. Mai, quindi poi Bossi è uno dei miei, con cui al di là delle diversità di opinioni su alcune materie importanti, però ho un rapporto ottimo. Senta, invece sull'inno e sul tricolore mi pare capire, lei non transige, non tratta non con solo nessuno. Io non transigo, credo che tutto il popolo della libertà, ma credo che lo sappia anche Bossi. Bossi deve giustamente controbilanciare il senso di responsabilità che magari alcuni dei suoi non apprezzano, ma che lui ha, che ha dimostrato in quest'anno. In quest'anno abbiamo fatto un federalismo solidale come lo voleva tutta la maggioranza, non secessionista. Abbiamo fatto la legge per Roma Capitale, che poteva essere un dito nell'occhio ad alcuni della Lega, che so io. E invece dice, no? L'hanno mandata giù, ma fanno un po'. Ma fammi elencare tutto. Sì. Abbiamo fatto tutto. L'Abruzzo come emergenza nazionale. Abbiamo in più adesso detto che la Sicilia deve essere una questione nazionale e Bossi ci è venuto dietro. Che poi in agosto debba controbilanciare con un po' di frasi propagandistiche non mi fa piacere, ma lo trovo inevitabile. Perfetto. Senta, due giorni fa avevamo la Serracchiani che non sapeva le parole dell'inno, quindi siamo costretti a fare il test anche a lei. La Serracchiani. Ma sai che non la conosco. No, ma non lo dica, si offenderanno quelli epidi. Ah. Ma per me è un oggetto mistero, perché non ho mai avuto il piacere di incontrarla, non l'ho mai vista, non la conosco. Comunque io le ho fatto questo test, le ho detto di intonare le parole da siamo pronti alla morte e stringiamoci a corte, e lei non se le ricordate. Lei se lo ricorda l'inno? Serracchiani vuole che io mi metta a piangere. Dico, no, volevo chiedere se lei si ricorda tutte le parole, perché anche la seconda e anche la terza strofa. Allora facciamo la seconda strofa. Cominci, vediamo però mi dia l'inizio. Allora, stringiamoci a corte, siamo pronti. Allora. È troppo facile. Non mi dica troppo facile. Siamo pronti alla nostra, siamo pronti alla nostra, l'Italia chiamò. Tutto qua. Che cosa vuoi che ti canti? Dimmi quelle cose che dobbiamo cantare, io l'inno nazionale. Allora, intoni, vada. Il primo, il secondo e il terzo pezzo, tutto lo so. Allora vada col secondo. Noi siamo da secoli calpesti e derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi. Raccolgaci un ma c'è la musica. No, non canto, ti do le parole. Ma lui la canta sempre. Era una speme, diffonderci insieme già l'ora suonò. Ti è piaciuto questo pezzo che non la sa nessuno? E se la seconda strofa. Poi di nuovo, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, eccetera. Ma almeno questa la intoni. Ciao caro, un abbraccio, ti voglio bene. Mannaggia. E defezione. E defezione. Ti vorranno più bene se gliela risparmio. Va bene, grazie. A presto, ciao, ministro. E allora abbiamo parlato di Burkini, abbiamo parlato del caso del giorno, la defezione dei ministri dalla festa dell'unità, ce l'ha spiegato Ignazio La Russa, aspetta addirittura, lancia da queste onde di frequenza un appello, chissà che cosa accadrà, però il vero fatto del giorno, la vera tragedia è l'affondamento, la morte di una gommone di Eritrei, solo 5 sono sopravvissuti, 70 gettati in mare, insomma in condizioni drammatiche. Sentiamo il servizio del TG1. Sussurra, steso sulla barella, e racconta la morte arrivata dal mare. 20 giorni in balia delle onde senza alcun aiuto. A 17 anni uno dei 5 naufraghi è fuggito dall'Eritrea. Il loro gommone avrebbe perso la rotta subito dopo essere salpato dalla Libia. Vedevamo le luci di barche grandi e piccole, ma nessuno ci ha salvato, racconta il giovane sul molo di Lampedusa. Il gommone sfuggito sfuggito ai controlli della missione europea Frontex il pattugliamento congiunto che dovrebbe bloccare viaggi della disperazione, e proprio sulla collaborazione con le autorità di Malta si addensano i dubbi e anche le accuse sulla nuova tragedia della migrazione. Le motovedette maltesi non avrebbero lanciato l'allarme in tempo. 7 cadaveri sono stati avvistati nel mare libico. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta, mentre il prefetto sta preparando una relazione che invierà al ministro dell'Interno, che vuole fare chiarezza su quanto accaduto. E non si fermano gli sbarchi. 11 migranti sono arrivati a Linosa, altri 44 sono stati trasportati a Porto Empedocle dalla Guardia Costiera. Eccoci, allora è una tragedia, è l'ennesima tragedia, è l'ennesima dimostrazione che non si ferma il mare e che bisogna trovare una soluzione, soprattutto per evitare questo modo drammatico di lasciare la gente in mezzo al mare. Allora, i vescovi dal quotidiano Avvenire lanciano un allarme, sentiamo quale, dai servizi del TG3 di oggi. L'Occidente è a occhi chiusi come ai tempi della Shoah. È il quotidiano dei vescovi, l'Avvenire, a proporre l'associazione tra gli immigrati naufragati in mare e deportati nei campi nazisti. L'Occidente non vuole vedere i barconi dei migranti, come allora nessuno voleva vedere i vagoni piombati, scrive l'Avvenire. Ma nessuna politica di controllo dell'immigrazione consente a una comunità internazionale di lasciare una barca carica di naufraghi al suo destino. Ancora dalla CEI è Monsignor Schettino a parlare di una grave offesa all'umanità e al senso cristiano della vita. Si percepisce, dice, un senso di povertà dell'umanità. Non c'è attenzione verso l'altro, verso chi fugge da guerre e miseria. Sono rimasti solo loro, i vescovi in questo paese, a ricordare l'inalienabile riduzione della questione umana. 824 0024 per le vostre opinioni alla Zanzara, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Il primo era Telese, se il portaborsa di Mastella, magari, perché sono anche ben pagati al Parlamento europeo. E invece un altro carino, quelli affettuosi, insomma, un po' li celo. È importante che vi sia la contestazione immediata dell'infrazione e l'identificazione del responsabile. Qui si parla ovviamente di multe. Allora sentiamo i nostri possenti ascoltatori che cosa hanno pensato dopo questa, come dire, prima sventagliata di pareri, opinioni e storie. Sentiamo Vittorio da Milano. Buonasera, signor dottor Telese. Non so buonasera. Se lei si ricorda di me a San Benedetto del Tronto. Quando ho fatto la richiesta sul libro che lei ha scritto per Bologna. Ma lei non era di Milano? Io sono di Milano, sono Arcore, io telefono da Arcore. No, da Arcore addirittura, bene. Il successore... Quel covo bolscevico di Arcore, che non c'è neanche un sindaco del PD. Dopo di me, dopo di lei a rappresentare un libro, mi ha scritto il vero uomo di Arcore, dopo quello che gli ho detto io. Ma è una roba da pazzi. Adesso qui, quelli della Lega, compreso quello che si era messo il porcello sulla maglietta, saranno contenti... Ma Calderò! Non ne parli così. Ma non si può fare a meno, perché lei dice c'è solo la Chiesa. Ma non c'è solo la Chiesa, ci sono io che sono di Arcore e che Bene. Sono in mezzo a questa banda, perché questa qui è una banda. L'uomo di Arcore, lei parla per difendere gli immigrati. Bene, siamo contenti. Stefano da Gorizia. Anch'io. Pronto? Buonasera. Sono io. Eccoci. Sì, buonasera. Sì, è lei, indubbiamente. Sì, non capivo. Anch'io difendo gli immigrati. Ma, bene. Ma non perché, come persone umane, ma gli italiani chi li difende? Vanno difesi gli uomini, tutti, sia italiani, sia immigrati, e, come dire, puniti i delinquenti, tutti, sia quelli italiani, sia quelli non italiani. C'è ancora questa telefonia? Quello che si dice in giro oggi sembrerebbe che è prioritario aiutare queste persone, ma io chiedo agli italiani, vorrei collegarmi anche al discorso di ieri del lavoro, che gli italiani non fanno più determinati lavori. Lo abbiamo visto addirittura in un'indagine della Confcommercio. Sì, ne abbiamo parlato. Ne abbiamo parlato, ma siccome volevo intervenire ieri, ma è caduta la linea, non ho avuto occasione di... Io ho chiesto tante volte a amici, a gente che è più studiata di me, come mai, io sono anche, ho fatto nella mia vita ho lavorato da imprenditore, ho lavorato anche per privati. E quello che riscontro è che è difficile oggi, ma non credo che sia colpa degli immigrati, penso che sia piuttosto colpa delle politiche che i nostri governi, non dico il governo, i nostri, fanno. Perché la mia impressione è che si voglia, cioè è facile oggi perdere lavoro per tutti danno colpa alla crisi. Alla crisi allora si licenzia, però gli immigrati c'è qualcuno che dice che servono. Bene. Allora questa è un'ottima riflessione. Allora 800 24 00 24, ringraziamo questo nostro amico di Arcore, sentiamo di Gorizia, sentiamo Olivier da Milano. Buonasera. Sì, è la prima volta che parlo in radio, dunque scusate l'emozione. Allora, io chiamavo per portare una testimonianza di un padre extracomunitario che è veramente in difficoltà a far capire ai suoi figli, perché ho dei figli piccoli, che sicuramente nel futuro saranno discriminati in Italia. Che non saranno discriminati? Saranno discriminati in Italia. Allora, io sono arrivato in Italia 15 anni fa, sono laureato a Pavia in farmacia e io lavoro a Milano. Tutti i weekend scorso io ho fatto 2-3 guagi notturne successive, dove ho prestato assistenza a quasi 400 persone. Dopo 4 giorni senza vedere i miei figli, torno a casa, accendo la televisione e sento Bossi che dice che noi veniamo in Italia a delinquere. Ma mi è venuta voglia di piangere. Io mi sono fatto un mazzo così, ho fatto tutti i weekend, ho sacrificato tutti i ferie per fare assistenza a Milano, arrivo a casa, accendo la televisione, un minuto per riposarmi e io sento in televisione che tutti gli stracomunitari sono delinquenti. Io ho guardato i miei figli, ho detto io non so cosa sta succedendo. Sono piccoli, capisco, sono neri. Capisco io questo sentimento. Io non so cosa dire, io non so come prepararli a affrontare questi problemi in futuro. Io non so cosa dire, io li guardo, hanno 6 anni, sono spensierati. Ma come devo far capire ai miei figli che domani in Italia saranno discriminati, che domani non li vogliono? E guardi, Olivier, è tutta la settimana che ne parliamo, però mi dia anche un po' di speranza, mi dica che non c'è del razzismo intorno ai suoi figli, che a scuola stanno bene. Perché poi, no, vede questa cosa, no, aspetti, questa cosa delle scuole, fanno le battaglie, dicono ci sono troppi immigrati nelle scuole. Io quando ho portato mio figlio ho scoperto che i bambini stranieri parlano l'italiano meglio dei nostri. Sì, ma però se io accendo la televisione, ho provato a portare i miei figli anche in Africa. Ma io mi sono detto magari se domani ci cacciano fuori, no? Non si sa, e che ci dobbiamo ritornare giù, come faremo? Ma neanche in Africa, sono completamente riacculturati, sono degli africani nati in Italia, non c'è, io li ho portati lì, ho capito che non si inseriranno mai in Africa, in Italia. No, devono stare qua. Ma non devono stare qua. Accendi la televisione, senti tutto quello che si spara su di noi. Io come genitore torno a casa, sto male, non riesco neanche a dormire. Sì, io però dico, voglio dire, non prenda sul serio con tutta la gente che ce l'hanno contro. Però, vabbè, io ho tantissimi amici italiani, meno male che il 99% sono gente brava, che sul piano professionale sono gente brava, però c'è quel 1% che non mi lascia dormire. E un'altra cosa che devo dire, una cosa che mi ha fatto molto ridere, 2 eventi che mi hanno fatto molto ridere questo weekend. Un deputato della Lega si è presentato in farmacia da me per chiedermi l'Aulin senza ricetta. E lei gliel'ha dato? Io gliel'ho fatto capire che in Italia ci vogliono le leggi e sono da applicare. E che la ricetta, che l'Aulin non se lo sogna neanche se non mi presenta la ricetta. Chi era il deputato? No, glielo dico in farmacia. Una signora gliel'ho armato e immagini cosa mi ha chiesto. Allora, c'è un senegalese che fa il giro delle case delle persone anziane pagato dal comune di Milano a portare i farmaci, fa la spesa all'Esselunga perché non possono scendere con i caldi. Allora, questa qua si lamenta che è stato toccato da questo senegalese e voleva capire se bastava la mucchina per disinfettare tutta la casa. Vabbè, è una vergogna. L'ho sentito bene, l'ho detto. Abbiamo guarda, il giornale radio, Olivier. Un negro. Grazie, grazie mille, la richiameremo. Stiamo entrando dentro le storie, come ci piace fare tutte le sere. Abbiamo avuto una telefonata commovente, toccante, sicuramente problematica, quella di Olivier, che vorrei anche risentire dopo. 824 0024 per le vostre opinioni, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Vediamo se ne è arrivato uno. Non siamo noi che lasciamo la gente in mezzo al mare, sono loro che non dovrebbero partire e poi noi di questo naufragio non abbiamo nessuna colpa. No, noi non c'entriamo nulla, infatti respingiamoli indietro con le cannonate. TG3! I sopravvissuti di Lampedusa, una motovedetta maltese non ci ha soccorso. Al TG3 il ragazzo eritreo che per primo ha parlato coi superstiti. La Chiesa, un'offesa all'umanità, il soccorso è un dovere, il governo non abbiamo responsabilità, il PD frutto di scelte xenofobe. A Jackson Hole, nel Wyoming, i numeri 1 delle banche centrali, la prima diagnosi, i rischi finanziari sono diminuiti ma la ripresa sarà lenta. L'attentatore di Lockerbie, liberato per motivi di salute, accolto da eroi in Libia, indignazione in Gran Bretagna, gelo Londra, Tripoli, Washington. Si infiamma il dopo elezioni in Afghanistan, l'ex presidente Karzai si proclama vincitore, il suo rivale Abdullah lo accusa di brogli. Autovelox si cambia, no all'affidamento a privati, nuovi controlli sulle strade, via le pattuglie nascoste, più tutela della privacy. È scattata la regolarizzazione di golf e badanti, si pagano 500 euro, lo Stato incasserà fino a 1,5 miliardi. I funerali di Fernanda Pivano a Genova, la sua città, l'ultimo saluto di Don Gallo e tanti amici in chiesa. Ciao signora Libertà. Eccoci, allora tante cose interessanti, ma sentiamo anche il menù del giorno secondo i giornalisti di Sky TG24. Strage a Lampedusa, si cercano i corpi in mare dopo il racconto degli eritrei. La CEI accusa un'offesa all'umanità, ma il Viminale spiega nessun SOS. Afghanistan è scontro sui risultati elettorali, Abdullah denuncia brogli. Il capo di Stato Maggiore a Kabul, Bartolini, a Sky TG24 dice stabilizzazione lontana. Crisi il numero uno della Fed, Bernanke assicura l'economia riparte, bene le borse. Arcinazzo stupra una ragazza di 16 anni, arrestato un 18enne rumeno. Colf e badanti in nero, al via la regolarizzazione, oltre 750.000 le domande previste. Autovelox più trasparenti, la direttiva di Maroni, mai più pattuglie nascoste. Caldo ancora intenso, ma al nord è allerta temporali, da domani primi rientri. Calcio, ripartono i campionati, questa sera primi anticipi della Serie B. E allora rieccoci in studio, avevamo in linea Olivier, questo farmacista che ci ha dato una testimonianza molto interessante. Adesso sentiamo Raffaele da Napoli. Pronto? Raffaele Bauccio, Luca Bauccio, allora avvocato milanese che per l'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche, ha avviato 100 cause civili e penali contro chi attacca l'Islam in Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, ci vuole raccontare un po' il mondo visto dal suo osservatorio? Beh, diciamo l'Italia, vista dal mio osservatorio, dà una rappresentazione a volte sconfortante, a volte patetica, come in questi giorni si è visto a proposito del dibattito sul costume islamico e dintorni. Guardi, mi è arrivato un messaggio: basta con questo vittimismo becero, mi faccia un caso di razzismo a Milano nelle zone dove comanda la Lega, e poi mandate a cagare, anche evidentemente rivolto a me e non a lei. Mi faccia un esempio. Ma guardi, io non voglio assecondare nessuna tendenza che non c'è nell'UCO e non c'è nella stragrande maggioranza dei musulmani in Italia, nessuna tendenza al vittimismo. Complessivamente l'Italia è un paese tollerante, civile. Il problema è che ci sono manifestazioni, come per esempio una sistematica campagna denigratoria, diffamatoria nei confronti delle organizzazioni che rappresentano l'Islam in Italia, che noi intendiamo fermare, ovviamente con i mezzi della legge e non con i mezzi della propotenza. Bene, mi faccia tre esempi rapidi, essenziali, comprensibili. Beh, il primo esempio è che spesso sui giornali, non tutti, ma su alcuni giornali, è puntuale trovare indicata Lukoil come un'organizzazione che rifiuta la Costituzione, rifiuta la tolleranza, rifiuta la legalità, quando invece ogni giorno le sue azioni testimoniano esattamente il contrario. In tutte le cause che noi abbiamo avviato non abbiamo mai vista contrapposta una sola prova che documentasse quelle accuse. Però serve creare un mostro, perché ogni volta che si indica un mostro c'è sempre un martire dall'altra parte, c'è sempre qualcuno che denuncia, qualcuno che chiede le scorte, qualcuno che recita la parte del salvatore della patria. È un gioco speculativo, un gioco parassitario che deve finire, perché viene fatto sulla pelle di persone che vivono pacificamente, che non hanno nessuna intenzione di contrapporsi. Alla fine, ieri abbiamo dato notizia che è entrato in vigore il cosiddetto provvedimento anti-kebab, e qualcuno ci ha detto, poi avremo Prosperini, che è il padre di questa normativa, ha detto ma in realtà non era un provvedimento anti-kebab, è una regola generale. È un provvedimento che io ritengo ridicolo, perché non ha alcun senso. Interviene in maniera illegale a vietare una libertà di intrapresa economica e commerciale che invece andrebbe garantita, e che colloca l'Italia al di fuori degli standard europei e mondiali. Si va a Parigi, nel centro di Parigi o nei quartieri più belli di Parigi, si mangia il kebab, attenzione, non soltanto nei quartieri musulmani, ma anche nel quartiere più importante ebraico di Parigi si mangia. Ma davvero il kebab. Non si potrà mangiare il kebab? Non è un po' esagerata questa lettura? No, si potrà mangiare, ma non per strada. Ma è come vietare di mangiare il gelato per strada? Se lo facessero a Teheran, che cosa diremmo? Mi sembra una stupidaggine. Ho capito. Una cosa c'è che si colloca fuori da ogni paradigma di buonsenso, ma anche di legalità. Non si può impedire di avviare delle attività economiche e commerciali. Ovviamente se si impongono delle restrizioni, come si è fatto con i centri telefonici, ai quali è stato imposto in Lombardia di avere una struttura così imponente da rendere impossibile l'apertura, ovviamente mi sembra che quello sia un modo subdolo e indiretto di impedire che quell'attività venga svolta. Ho capito, va bene. Poi sentiremo il padre di questo provvedimento. Le chiedo l'ultimo parere sul burkini. Ma guardi, a me sembra una questione di anatomia pseudolaica, una sorta di ossessione voyeuristica anatomica. In Italia noi possiamo coprire il capo e dobbiamo farlo quando siamo in piscina. Possiamo coprire il busto, le spalle, perché il costume intero è sempre stato questo. Possiamo coprire le gambe, perché gli uomini portano i bermuda fino al ginocchio. Quindi mi pare che questi difensori della patria, della tradizione italiana, siano preoccupati di braccio, avambraccio e polpaccio. Mi sembra ancora una volta una manifestazione ridicola e di vuoto culturale, ma anche una... Certo. Manifestazione sì, anche di illegalità, perché però ovviamente si attenta alla Costituzione. Io penso che ognuno possa vestirsi come gli pare, certo io non mi metterei mai una muta di questo tipo. Sì, è una libertà se... che dobbiamo difendere, ma c'è qualcosa anche di integralistico dietro la scelta di mettersi il burkini. Soltanto un senso del pudore che è tutt'uno con il senso religioso. Io mi stupirei se in spiaggia vedessi una suora fare il bagno in bikini. Però vorrei che la suora, esatto, potesse però, fare il bagno. Però lei ha fatto un'equiparazione interessante. Vuol dire che le donne islamiche hanno uno standard di pudore obbligato dal mondo in cui vivono, simile a quello delle suore. Questo mi sembra. Esatto, hanno un senso religioso che rivendicano e che vogliono affermare con coerenza. Quindi io faccio l'esempio della suora, ma potrei fare anche l'esempio di una consacrata, di una religiosa, potrei fare l'esempio della Binetti o di persone che noi stimiamo, che accettiamo nel nostro mondo, che non consideriamo delle persone da clandestinizzare, ma anzi alle quali riconosciamo un ruolo importante. Il problema è evitare che qualcuno lo faccia, ovviamente perché costretto, ma non offendiamo e non ridicolizziamo, non clandestinizziamo il senso religioso, perché dei musulmani. Perfetto, le giro un messaggio che mi è arrivato. Ma perché questi islamici non se ne tornano dai loro illuminati governi molto meno liberi dei nostri? Ma perché intanto sono vittime di quei governi e non sono artefici. Quei governi sono dei governi dittatoriali, spesso sostenuti dall'Occidente, quasi mai voluti dalla loro popolazione. Ricordiamo che in Tunisia, come in Egitto, quei presidenti vengono eletti da decenni con percentuali del 98%. Questo significa che quel popolo non è libero di scegliere, però con quei presidenti, i nostri presidenti, intrattengono rapporti più che amichevoli di ogni tipo, personale, commerciale, politico. politico e diplomatico. Dire perché non se ne ritornano nel loro paese è una frase che non ha alcun senso, cioè è detta per essere detta, una frase da caffè, ma non, di certo non può essere addossato ai musulmani che sono vittime di quei governi la responsabilità della natura dittatoriale o poco democratica di quei paesi. Grazie a Luca Bauccio, sentiamo un'opinione. Luca da Milano è in linea, vada, parli. Luca, il mio omonimo da Milano, c'è? È caduto. Raffaele da Napoli. Ci sono. Vada. Io volevo fare soltanto un appunto prima di dire il motivo per cui chiamavo all'avvocato, tra l'altro mio collega, insomma io chiamo da Napoli, faccio il suo stesso lavoro. Tutto si può dire dei napoletani purché che non sia un popolo accogliente, un popolo che ha girato il mondo e che ha fatto dell'immigrazione la propria bandiera e quindi siamo sempre stati disposti ad accogliere tutti. Personalmente sono uno che ha cercato di perseguire la via dell'inculturazione, cioè di capire che cosa ci sia nella cultura dell'altro per poterlo accogliere meglio. Però mi rendo conto che quando vado a fare l'analisi e il bilancio di quello che è stato il mio intervento, devo dire che io in qualcosa ho sbagliato, perché non trovo la stessa accoglienza, scusi la cacofonia dell'espressione, dall'altra parte. Mi spiego meglio. Se io li accolgo e cerco di capire le loro ragioni all'interno della mia nazione, del mio paese, del mio borgo dove vivo, perché altrettanto non possono fare anche loro? E non penso che questo sia un ragionamento. Beh, un po' ce l'ha spiegato l'avvocato, perché in molti di quei paesi ci sono delle dittature, purtroppo. Sicuramente ci sono delle dittature, però neanche loro sono accolti nei loro paesi. Questo non giustifica la loro reazione o la loro, come dire, veemenza con cui cercano in qualche modo di sopraffare un paese come il nostro che li ha ospitati e che cerca di integrarli in ogni momento e in ogni situazione. Per cui forse un piccolo sforzo. Beh, le leggo due messaggi da un paese. Aspetti, le leggo due messaggi da un paese come il nostro, perché esistono anche persone così. Beh, guardiamo il lato positivo della vicenda del gommone: la popolazione ittica del Mediterraneo ringrazia e si ingrassa. E poi un altro: vabbè, ma smettiamola con questo buonismo, parlate piuttosto dei cristiani bruciati. Vi immaginate se bruciassimo noi i musulmani? Ecco, voglio dire, c'è un po' di tutto in questo paese. Certo, sicuramente, ovviamente non sono per nulla d'accordo con i due messaggi, uno perché mi sembra grottesco pensare alla popolazione ittica e l'altro perché anche se è vero che tantissimi cristiani ancora muoiono negli stessi paesi che oggi pretendono di essere capiti, compresi e accettati da noi, però è vero anche che forse chi è più intelligente, chi capisce di più, chi è più accogliente riesce a superare certe cose. Però, bene, lo speriamo anche noi, parliamo di tante cose, stiamo arrivando all'ultima fase, quella un po' del dibattito su un tema controverso, intrigante, che ci appassiona e ci pone anche dei problemi. Allora, l'ultima volta volevo sentire Olivier da Milano, ci racconta un altro aspetto della vita vista da chi sta in Italia e sente sulla sua pelle il morso dell'indifferenza, a volte del razzismo, del sospetto. Pronto? Pronto, buonasera, vada. Buonasera, no, scusi l'emozione di poco fa, che è la prima volta che parlo in radio, dunque. No, stavo dicendo che noi genitori di figli extracomunitari siamo doppiamente in difficoltà. Siamo in difficoltà nel senso che stiamo cercando una formula per farli aiutare, cioè una formula che li porta a integrarsi bene. Cioè, a tutti i genitori interessa l'inserzione dei figli. Ancor più se i figli sono nati in Italia. E ogni volta che accendo la radio, adesso ho sentito alcuni messaggi dei vostri ascoltatori che ci insultano, ci invitano a tornare a casa nostra, che sono tutti questi insieme di cose che ci porta sempre a preoccuparsi. Guardi, gliene neggo uno, Luigi da Roma, ma basta, i romeni delinquono e stuprano, i nordafricani islamici e spacciatori di droga e gli italiani non fanno più certi lavori. Ecco, loro uno, ci saranno sempre gli spacciatori, cioè non si avrà mai una popolazione di 4 milioni di extracomunitari tutti buoni. Ci sarà sempre una percentuale fisiologica di persone che delinquono, esattamente come in Italia. E se so bene, sono sempre intorno a 6, 3, 4, 5%. Ma stiamo parlando di 4 milioni di extracomunitari. Se 4 milioni erano tutti delinquenti, non credo che basteranno tutti Milano per metterli in carcere. Le chiedo l'ultima cosa, lei è regolare ormai da molti anni, che cosa può dire sulla norma che fa diventare un reato la clandestinità? Penso che è un reato che non funzionerà, è un po' esagerato perché... Ha degli amici clandestini? Che cosa allora, pensano in questo? Tutti gli immigrati hanno più o meno qualcuno che conoscono che sono clandestini e nessuno è clandestino perché vuole. Ci sono tantissime storie drammatiche dietro, ci sono persone che escono, che vengono da paesi dove ci sono le dittature, dove ci sono le guerre. Ci sono persone che vengono dai paesi dove sono, come sono perseguitati. Cioè, è difficile dire a qualcuno che è scappato da una guerra. Ci sono paesi apparentemente stabili, come tantissimi paesi africani, però che sono retti da dittature tremende. Ma io non so se tanti di voi hanno vissuto sotto una dittatura. Noi, tanti di noi hanno vissuto sotto le dittature. Sappiamo cos'è una dittatura. Quando li vedo... Bene. Cioè... Grazie, Olivier, per questa testimonianza. Adesso una fase di discussione serrata. Pier Gianni Prosperini, assessore regionale alla Lombardia del PDL, e Francesco Merlo, ancora una volta editorialista di Repubblica. Allora volevo cominciare da Prosperini, perché ieri è entrato in vigore un provvedimento di cui, come lui sa, abbiamo parlato spessissimo alla Zanzara, la cosiddetta norma anti-kebab. Un nostro precedente ospite ha detto che è un provvedimento demenziale e che in tutte le capitali europee si può mangiare il kebab e solo nella sua regione invece c'è questa libertà cancellata. Perché Prosperini quel provvedimento? Allora, se non gli sta bene di stare nella nostra regione, prende baracche e burattini e va da un'altra parte che nessuno sente la mancanza. Capitolo numero uno. Capitolo numero due. Noi abbiamo detto che non si può mangiare il kebab fuori, vale a dire... non ottemperare alle leggi del commercio a cui sono tenuti i cittadini italiani. E noi come Regione Lombardia e come centrodestra di Regione Lombardia non siamo più disponibili a far sì che siano discriminati i cittadini italiani lombardi e più segnatamente milanesi dai cittadini stranieri immigrati più segnatamente musulmani. Però la cosa che mi stupisce è perché proprio il kebab, che cosa ha contro il kebab? Fa schifo alla vista, al tatto, all'odorato ma a parte quello, perché ci sono solo quelli del kebab, non ci sono altre forme di vendita che viene comperata all'interno e consumata all'esterno. Ma è vero, se uno compra una pizza che la mangia cosa? Fuori, no, un pezzo di pizza, un gelato. Ma dove come mai? No? Fate un conto è un gelato. Quando mai ha visto che uno prende un pizzone... Quindi a lei dà proprio fastidio il kebab, va bene, allora... No, a me fa schifo il kebab proprio come concetto, che uno non può essere italiano e... Ma a parte questo che... Cosa? Non può essere italiano, non può essere italiano e mangiare il kebab? Ma uno che vive nel paese dove abbiamo la miglior cucina del mondo se mangia il kebab... Saranno affari suoi. Ma di fatti, lascio finire... Sono affari suoi ed è una questione che attiene ai gusti. E siccome qui al nord noi diciamo tecigosti e catai, cioè tutti i gusti e trovarceli, che se lo mangino. Però se lo mangiano nelle regole a cui sono tenuti sottostare i cittadini italiani. Non alle regole che sono musulmani possono fare quello che vogliono. Perché io sono assolutamente dell'idea dell'imperatore Emanuele III, secondo Paleologo, che disse che nulla di buono viene da là. Nulla di buono. Bene, sentiamo un attimo Francesco Merlo, editorialista di Repubblica. È chiaro il suo concetto, poi le ridiamo la parola. Merlo, che cosa è? È un conflitto di civiltà? Com'è che il kebab diventa un simbolo così dirimente e anche dividente? Ma non lo è, il kebab non è simbolo di niente. Il kebab è un cibo come la pizza, è un cibo come i cibi cinesi. In tutti i paesi del mondo ciascuno mangia quello che vuole. Cioè, il roast beef non è un cibo italiano, però immagino che Prosperini mangi il roast beef, non si fa problemi. Poi che vuol dire mangiare con le regole? Ha detto che mangia la cotoletta alla milanese. Mangerà anche il roast beef, la cotoletta alla milanese, mangi quello che vuole, però ognuno mangia quel che vuole. Che vuol dire mangiare con le regole? Che non bisogna mangiare con le mani, che non bisogna sputare nel piatto? Facciamo, mandiamo le ronde a vedere se Prosperini quando mangia rutta cosa fa? Cioè, mi sembra una cosa, cioè, non mi sembra neanche un argomento serio di discussione, è una sciocchezza. E però è diventata una legge. Certo. E vabbè, è diventata una legge, non so bene, cioè, non credo che si possa, insomma, invitiamo i lombardi a disobbedire a questa legge, a mangiare il kebab quanto vuole all'esterno, là dove non ci sono le regole commerciali. Vabbè Prosperini, abbiamo capito, lei mangi la cotoletta alla milanese e poi vada in giro a cacciare i mangiatori di kebab, le sue leggi, le sue regole, dentro, fuori. Guardi e guardi noi che mangiamo la cotoletta, come siamo? Sì, mangi la cotoletta lei. Senta Prosperini, ma le voglio chiedere una cosa, ma lei non pensa che un qualunque cittadino straniero che si trovi in Lombardia sentendola si senta attaccato, minacciato? Perché? Perché lei ha un tono che sembra ostile per una persona che non appartiene. Ma lui allora, piace l'imperatore, lui com'era paleologo. Sì. Ma non sono ostile, sono diventato ostile perché ho visto che se fa la stessa cosa dando la porchetta il commerciante italiano, gli arrivano dentro la polizia e la guardia di finanza. Se lo fa il musulmano può fare quello che vuole. Allora siamo stanchi. Siamo sì, ma lei qui ci sta dicendo che il kebab non le piace e che lei ha fatto una norma, una legge che impedisce di mangiare il kebab fuori dal negozio. No, questo lo dice lei. Io ho detto, da un punto di vista culinario, il kebab non mi piace, ma non mi piace neanche la trippa, sempre contro di quello. Perché la trippa è romana. Sì, esatto. Io sono un po' preoccupato perché in Lombardia, diciamo, non si può più mangiare nulla. No, si può mangiare tutto quello che si vuole, ma se quelli che vengono il kebab... Ma non per strada. Ma no, devono sottostare, perché se lei apre un altro tipo di negozio e vende qualche cosa, no, deve sottostare a delle regole, non è per me. Ma lui lo sa che le origini degli spaghetti sono arabe. È per quello che è venuto fuori, non è una legge anti-kebab. Merlo le ha fatto una domanda, Prosperini, diceva se sa che gli spaghetti sono di origine araba. Lo dice lui, i spaghetti sono napoletani, lo dico io. Figuriamoci, ma non hanno mai visto il grano duro neanche adesso, figuriamoci. Paleologo l'ha detto molto chiaramente, nulla. Ah, paleologo, ha mai letto Michele Amari? Non sa che gli spaghetti sono di origine araba? Provi a leggere la storia dell'alimentazione. Mi faccia un altro esempio di una lavorazione del grano duro da parte degli... A parte che non c'è niente di male, se sono stati capaci di inventare bisogna balizzarli con le regole. E allora perché non li mangiano? Mi scusi, li hanno inventati e non li mangiano? Mangeranno altre cose. No, mangeranno non li mangiano, allora non li hanno inventati. Se li vogliono mangiare, dai. Li mangiano. Non è vietato alla Mecca mangiare no, spaghetti. No, perché lei è di quelle che dice che i numeri sono arabi. E perché non sono arabi? No, sono indiani. I numeri sono indiani, non arabi, indiani. Secondo Prosperini. Comunque, anche fossero arabi. E noi ci leviamo il cappello davanti agli indiani. No, non è che adesso qua tutto è arabo, per quello che stavo dicendo. No, ma gli indiani a noi ci piacciono gli indiani, gli arabi, persino i lombardi come lei. Cosa fanno? Ci piacciono. Che cosa? Ci piacciono gli indiani quanto i lombardi come lei, indiani, arabi, ci piacciono tutti a noi, non abbiamo problemi. Sì, ma l'importante è che lei e tutti quelli che piacciono a lei seguano le regole a cui siamo sottoposti noi. E io invito tutti quelli che vivono in Lombardia a mangiare il kebab alla faccia sua e a disobbedire alle regole. Allora, disobbedite alle regole e Prosperini verrà con le sue ronde a farvi vedere che il kebab è una porcheria. Ma lei sta facendo una confusione generale, io sono contrario. Mi fermo un attimo, sentiamo due telefonate per vedere che impressione ti ha dato. Marco, da Biella, fra un secondo torniamo. Sempre. Pronto Marco, ci dica. Buonasera. Buonasera, senta, io volevo, appunto, seguendo la diretta, dire al signor Prosperini che mi sembra, e a tutti i telespettatori, mi sembra abbastanza preoccupante il fatto che una persona, un politico, quindi un rappresentante, un nostro rappresentante come lui, quando si sta parlando di un problema così drammatico come quello dell'immigrazione, che ormai se ne sta parlando da anni, e da decenni in Italia si parli soltanto di kebab piuttosto che della provenienza degli spaghetti o dei numeri indiani, arabi, ma non ce ne frega niente, mi sembrano abbastanza delle cose abbastanza ridicole rispetto a qual è il problema reale. Il problema reale secondo me è che ieri sono morte 75 persone e di questo non ne stiamo parlando. E in questa giornata, la notizia di questa giornata è che il figlio di Umberto Bossi ha aperto un link su internet, si invita con un gioco ad affondare i gommoni. Ma io penso su questo. Certo, questo penso che Prosperini non sia d'accordo. Grazie, certo. Marco. Prego Prosperini, Signor Marco, gli dica al signor Marco di attribuire ad ognuno quello che dice e quello che fa. Se secondo lui è troppo leggero parlare di kebab, possiamo parlare dei tumori epiteliali, dell'ipomilanosi lenticolare acquisita, della diagnosi differenziale del morbo di... Scusi, Prosperini, io sono un medico, volete parlare di cose che fanno piangere? No, le volevo... La domanda era però il nostro ascoltatore però le chiedeva un parere su questo videogioco, sul sito della Lega, in cui il figlio di Bossi... In termini molto goliardici, sì. Una stronzata. Ah, ecco. Cioè, quindi... Devo dire. Ma io vorrei ricordargli che sono uno di quelli che ha detto, per primo ha detto le badanti vanno sanate. E sono uno di quelli che per primo ha detto tutti i lavoratori stranieri vanno regolarizzati. E poi partiamo con la legge di cui io sono uno dei primi firmatari, che ancora 5 anni fa, della immigrazione clandestina uguale reato. Prima saniamo quelli che lavorano. Se chi sta lavorando e chi gli sta dando lavoro è contento della persona, la si regolarizza. Bene, sentiamo Merlo. Sentiamo Merlo, ottimo. Merlo, volevo chiederle, invece lei ha scritto 2 giorni fa un editoriale molto spiazzante sul burkini, in cui lei sostanzialmente, anzi ci dica lei qual è la sua tesi sul burkini. Ma la mia tesi sul burkini è che ciascuno in Europa è libero di fare il bagno coprendosi o scoprendosi fino a un certo punto come gli pare, no? Purché appunto l'identità non venga celata nel viso, eccetera. Quindi nessun piscinaro d'Europa si può permettere di trattare male o di imbolgarirsi toccando i vestiti di una signora e invitandola ad andare fuori. Detto questo, che è una cosa comunque importantissima, a me personalmente il burkini non piace, non credo che ci piaccia il burkini. Cioè, mi dispiace per la signora che indossa il burkini perché in qualche maniera si automortifica e poi dà modo a tutti i Prosperini di dire quelle sciocchezze che dicono. Cioè andare in giro col burkini è un modo per farsi vedere di più ed è un modo, poi ripeto, per mortificare la donna, perché persino nella parola burkini c'è il dileggio linguistico che va, è una crasi tra il burka e il bikini. Il bikini, quindi tra il massimo della mortificazione e il massimo della liberazione. Ho capito, però lei dice, ecco, Prosperini, sentiamo lei. Io volevo dire, come tutte le persone deboli, il signor Merlo non riesce a prendere una posizione. Allora, qual è la legge che c'è in questo momento in Italia, o meglio, più che una legge, le regole, che uno può fare il bagno nella piscina e non può mettere la maglietta? Allora, se il bianco, italiano, cristiano, lombardo, milanese non può mettere la maglietta quando va dentro nell'acqua della piscina, spiegatemi perché, se sei musulmano invece puoi? Scusi un attimo Prosperini, ma un costume unico, monopezzo, non mi pare che allora mi pare sia una costume, maglietta. Allora è un costume, guarda che io non sono contrario, non me ne frega assolutamente niente. Presumo che da quelle che ho visto delle grandi bellezze non siano, quindi più si coprono meglio è. Se il burkini, come lo chiamano adesso, è abbastanza attillato in maniera da non fare cose svolazzanti, personalmente se è pulito chi se ne frega. Sentiamo Merlo che vuole dire una cosa. Anche questa è una sciocchezza. Ci sono il burkini è un marchio depositato, è stato inventato da una stilista israeliana ed è un costume secondo me molto sexy, basta guardare le immagini che accompagnano le sfilate. Mi lasci parlare, provi a prendere un caffè che è yemenita, si ricordi? Merlo, lei sta provocando. Cos'è che devo prendere? Lei prende un po' di arabi e poi di islam. No, perché questo è neanche il caffè prendo. Mocha è una località dello Yemen. Gliela lascio tutta a lei. Bravo, certo. Il caffè non lo prende lei? No, non bevo caffè. Dicevo che il burkini che fascia è chiaramente è molto più visibile in una piscina di un bikini, perché un bikini passa inosservato mentre un burkini attillato sul corpo modella le forme. Sì, ma per un anno non se ne accorge nessuno. E quindi invita gli uomini un po' caproncelli, come certamente non è Prosperini, a guardare, a indovinare, a tirare fuori il peggio di sé. Senta, no, Merlo, le chiedo l'ultima cosa, sia lei che a Prosperini. No, sia lei che a Prosperini. Volevo chiedere un'opinione sul cattivismo, no? Sul cattivismo, cioè il ministro Maroni ha detto a un certo punto serve anche il cattivismo per risolvere il problema dell'immigrazione. E molti nostri ascoltatori sembrano sedotti da questa cosa. Sì, io sostituirei la parola cattivismo con severità. Ma il cattivismo è la reazione al buonismo. Lei lo sa perché è venuta la caccia al fumatore? Io non fumo, quindi me ne strafotto. Ma è venuta la caccia al fumatore perché una volta, invece di mettere nei locali, nei cinema, nei ristoranti, l'aspiratore, per taccagneria, non l'hanno messo. E talmente è diventata grande la cosa che adesso non si fuma più da nessuna parte, addirittura nei parchi. E il buonismo ha fatto sì che la gente diventasse talmente stanca, ostile, in un momento di disagio tremendo, impaurita da questa immigrazione generalizzata, che si invoca il cattivismo, cosa che 20 anni fa nessuno avrebbe detto. Quindi il cattivismo è una reazione, quindi è in parte legittima. Buonismo, sentiamo Merlo. Il buonismo del signor Merlo provoca il cattivismo. Mi pare che la caccia ai fumatori e la battaglia contro il fumo sia dovuta al fatto che il fumo fa venire il cancro, mentre il kebab certamente no. E quindi mi pare che già c'è una grande differenza fra le due cose. Poi, non mica detto, ma è lei che la fa parola il paragone kebab, mi sembra fumo, un neologismo stupido, perché non capisco, non bisogna mai essere cattivi, nemmeno con chi se lo merita, con chi appunto come Prosperini o lo stesso ministro Maroni. Cioè io non sono cattivo. Beh, signor Merlo, se vuol fare il cattivo può venirmi a trovare. No, adesso non vi minacciate, Prosperini. Appunto, non lo voglio fare. Gentilezza. Se vuol fare il cattivo con me, lascio la cattiveria a trovare e ai suoi amici ministri. No? Allora, Prosperini ha capito, Merlo ha detto che lascia la cattiveria tutta a lei e non scende sul piano della contesa. Vabbè, allora non sfidi, scusi, ha detto che dico sciocchezze, che qui e che là, io non gli ho detto niente, però mi limito a dire sciocchezze non è essere sciocchezze cattivi. Sciocchezze le dice, forse poi voglio dire, dire che lavoro fa Merlo. Non è una cattiveria, è una che lavoro fa Merlo? Signor Merlo, lei che lavoro fa? Non lo so, secondo lei? Non lo so, farà giornalista. E se non lo sa, si informa. Lei sta parlando con qualcuno che non conosce. Un sacco a che di sono che un parla. Medico, chirurgo, professore universitario che io dico con sciocchezze. Lei giornalista di Repubblica. Mamma ma mia, mi scusi, giornalista. Lui è un medico, chirurgo, professore certo, universitario. Ma vuol fare un paragone? No, ma che cos'è carità, un medico e che cos'è lei? Ma perché? Scusi un attimo, scusi Prosperini, perché ci sono professioni che danno un'abilitazione, come dire, alta e professioni basse. All'evidenza, visto che lui, pensando di avere una professione che dà una abilitazione alta, dà dello sciocco e dello stupido agli altri, gli faccio notare che forse non è il caso. Va bene, io la saluto Prosperini, concludo con Merlo e volevo chiedere a Merlo, allora... Alla fine questo conflitto di civiltà però in qualche modo c'è, perché se Prosperini, come dire, non mi pare, se mai si ha consenso, è l'assessore di una delle regioni più importanti d'Italia. E vabbè, è stato votato e quindi sopporteremo fino a quando, democraticamente, fino a quando non sarà votato qualcun altro, cioè queste sono le regole. Quindi io ho preso 20.000 voti, giornalista di Repubblica, venga a prenderli lei in Lombardia. Dai, anzi a Milano. Stiamo aspettando, aspetteremo. Abbiamo visto passare gente peggiore di lei, aspetteremo che passi pure lei. Sì, aspetteremo che venga lei, ma perché non viene lei? Allora, perché non faccio politica, faccio il mio lavoro e lei fa il suo lavoro offendendo la quando gente. Quando lei dice delle cose intelligenti sarò il allora, primo. No, non è lei che deve dire intelligente o meno, lei deve dire mi piace io o non mi piace. Io lo dico insieme agli altri, perché non lo io devo dire? Io non dico dire. Che quello che lei dice è stupido, dico che non liberale, mi piace. Permetta agli altri di criticarla, anche a chi è minoranza, no? Perché no? No, io non è che non permetta, le dico solo che lei non si può permettere. Io sono qui di mangiare kebab. Come io non lo dico sono molto contento di mangiare kebab e dico di lei quello che penso. e lo dico senza insultarla, quindi lei bene. Se prende, vi fermo qui, ringrazio Merlo, ringrazio Prosperini, sentiamo Pierluigi da Lecce, che idea si è fatto, pronto? Sì, pronto, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Guardi, diciamo che avrei voluto parlare di altri argomenti, però diciamo questo argomento del respingimento del cattivismo è veramente stringente. Io ho un'idea mia, guardi, più che di cattivismo io parlerei di idiotismo, perché altri dispregiativi non ne trovo. Tenga presente, caro Telese e cari ascoltatori, che a maggio si incominciò a parlare della possibilità per i preti e per i medici di denunciare coloro alla polizia, coloro che non avevano il permesso di soggiorno, dei cosiddetti clandestini. Sì, i clandestini periodo, che si andavano a curare. In quel periodo molte persone si preoccupavano sia per quanto riguarda, cioè se non stavano bene, avevano pure anche di andare al pronto soccorso, si preoccupava anche di se si aprì un dibattito, se mandare i bambini a scuola o no, o quanti clandestini, quanti bambini diciamo clandestini ci sarebbero stati in Italia, sconosciuti a tutti. Guardi, a Torre a Mare, in provincia di Bari, in quel periodo successe un fatto di cronaca incredibile. Una ragazza ucraina clandestina che faceva la badante, incinta di 40 anni, di notte si è sentita male, le è venuta un'emorragia ed è morta. Questa ragazza è morta perché su un rapporto della polizia di Bari c'è scritto che lei ha avuto paura di chiamare i medici, hanno avuto paura sia lei che la signora che lei stava accudendo di chiamare i medici per paura di essere denunciata alla magistratura, perché si parlava di questo reato di clandestinità per coloro che non avevano permesso di soggiorno. Guardi, si sta facendo dagli sms, dalla discussione, una grande confusione. Le persone che sono state, che sono morte ieri, l'altro ieri, diciamo questi 5 profughi che sono arrivati dall'Eritrea, sfuggono da un paese islamico, da un paese che è governato da più di 15 anni, da un dittatore che è amico degli integralisti islamici. Quindi confondere questi poveracci, questi veramente, e nessuno li sta difendendo, con questo dibattito sull'Islam, sull'integralismo islamico, sul buonismo, sul cattivismo, è veramente becero. Cioè queste persone stanno sfuggendo da una dittatura islamica. Queste persone sono vittime dell'idiotismo, non del cattivismo. E molto... io spero che il ministro Maroni sia stramaledetto, perché no, tutti ora, quelli che no, la pensano non arriviamo a stramaledire nessuno, guardi, nemmeno gli inglesi. Grazie per Luigi, grazie prendendo. Costanzo da Imperia. Ah, no, un attimo, abbiamo un ospite di cui abbiamo parlato prima, Lino Paganelli, responsabile feste delle feste democratiche. Buonasera. Buonasera. Allora Paganelli, per poco non si è incrociato con la russa, perché noi abbiamo chiamato la russa e lui ha detto: ah, io mi sono arrabbiato dopo questa frase di Paganelli, questa battuta pesante, e se rettificasse sarei pronto a cambiare idea. Che versione ci dà? Che cosa ci racconta? Ma io sinceramente non penso che sia stata, come ho dichiarato poco fa all'Ansa, quella frase, poi soprattutto 28 ore con 30 ore di ritardo a provocare questa tempesta in un bicchiere d'acqua. Sinceramente, probabilmente ci sono dei motivi politici, cioè i ministri volevano boicottare comunque la festa democratica, hanno dei problemi politici che pensano di risolvere in questo modo. Questa è una questione che non saprei, insomma, non mi appassiona più di tanto, diciamo. Ho capito. Senta, e che cosa ha detto Lanza sul caso, adesso che si è creato? No, ho sostanzialmente detto questa cosa che dicevo adesso. Non, penso non che si è pentito frase. Di quella battuta sul festino? È una frase, sinceramente, non ci vedo nulla di particolare. Ma lei pensava che avrebbe provocato una reazione così forte? La battuta sul festino, offensiva per i premier e i ministri che addirittura non venivano? Io no. Penso che ci voglia sempre una buona e sana dose di humor nella vita. Lei è toscano, poi, quindi poi come dire, toscano, vocato geneticamente all'ironia. Sì, mi viene bene, mi viene naturale, la trovo anche salutare. Senta, una invece buona dose di ironia, sì. Beh, ci dica qualcosa su questa festa, anche senza i ministri, è contento? Sarà una festa bellissima in uno scenario straordinario, quello del Porto Antico di Genova. Adesso stanno finendo gli ultimi preparativi negli stand, i volontari che stanno cominciando a dare vita alle cucine, a provare un pochino tutta la struttura di questa festa, e particolare dal punto di vista risorgimentale. L'ho atto per polemica con la Lega. siamo a 200 metri dalla casa di Mameli, a 700 dal museo. Siamo qui, insomma, e qui in quegli anni per la prima volta una banda, che è la banda di la filarmonica sestrese, suonò per la prima volta l'inno di Mameli, e gli abbiamo chiesto se avevano voglia di farlo domani con noi, partendo dalla libreria per arrivare al cuore della festa. Loro erano molto contenti, noi ancora di più, e inizieremo così questa festa. Ma come si chiuderà quindi questa polemica con il centrodestra, secondo lei? È finita qui? Non lo so, sinceramente. Franceschini l'ha rimproverata? No, non abbiamo avuto modo di... Non ne avete neanche parlato? Non ci credo. Non abbiamo avuto modo di sentirci. Ah. Quindi tutti e due a lavorare, io almeno sono a lavorare, penso anche lui, ma insomma. Senta, allora, visto che chiudete Ollino, sa che a tutti quelli che intervengono alla Zanzara, aprite con l'inno, noi chiediamo quattro strofe dell'inno. Ce le canta Paganelli? Io no, non lo faccio per voi. Non usi questa scusa, perché persino la Russa ha cantato, quindi. La Russa è un baritono, io no. Provo ad aiutarla. Canto malissimo, Fratelli d'Italia, l'Italia si è messa dell'elmo di scivolo. Se cinta la testa, dov'è la vittoria? Stava di Roma e Dio la creò. Però non si è impegnato molto Paganelli. No, non sono bravissimo. Non sono bravissimo. E l'Internazionale? Si ricorda qualche parola dell'Internazionale? Andiamo ancora peggio ma lo faccio per le vostre orecchie soprattutto. Allora, O Bella Ciao, mi dica l'attacco di O Bella Ciao. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella non ciao. C'è molto epos, va bene, grazie Lino, grazie. Fino a quando dura la festa? Fino al 6 di settembre. Lei che è un mago dei numeri, quanto incasserà? Ah, non lo so, spero che riportiamo a casa l'investimento che abbiamo fatto, che è più o meno sui 3 milioni di euro, e di avere tantissime persone con noi tutte le sere, compreso quando avremo Benigni, che ritorna in Italia con lo spettacolo su Dante. Benissimo, grazie mille, saluti a Lino Paganelli, TG1. Economia mondiale verso la ripresa, dice il presidente della Federal Reserve Bernanke. Euforia a Wall Street, borse europee in rialzo. Tragedia di migranti a Lampedusa, si cercano corpi in mare, giallo sul ruolo delle unità navali maltesi, la CEI un'offesa all'umanità. Sedicenne violentata dopo una festa di paese alle porte di Roma, arrestato il giovane romeno conosciuto dalla ragazza poche ore prima. Afghanistan, dopo il voto e scontro tra gli sfidanti, Karzai e Abdullah si proclamano entrambi vincitori, risultati dalla prossima settimana. Colfe badanti, parte la procedura di regolarizzazione, nessuna coda per i versamenti, c'è tempo fino al 30 settembre. Primi rientri dalle vacanze sulle strade bollino rosso per tutto il weekend, nuova direttiva sugli autovelox, mai più pattuglie nascoste. Allora, rieccoci, la Zanzara, avete visto, il TG1 ha un impianto sostanzialmente simile, siamo tornati a dei titoli molto simili, non è più l'anarchia ferragostana, il TG5, vediamo se ci stupisce. La Federal Reserve, presto la crisi sarà finita, buone le prospettive di ripresa e crescita, Wall Street trascina le borse al rialzo, petrolio ai massimi da ottobre. Avvolta nel mistero la traversata dei 5 eritrei soccorsi a Lampedusa, 73 sarebbero morti nel viaggio, 8 corpi avvistati in acque libiche. Chiuse le urne in Afghanistan, i due maggiori leader litigano sul voto, Karzai e Abdullah rivendicano entrambi la vittoria. Una studentessa sedicenne violentata durante una festa paesana ad Arcinazzo, in provincia di Roma, lo stupratore è un 18enne romeno. Traffico sostenuto ma nessun disagio per i primi rientri dalle vacanze, il caldo alle ore contate, al nord arrivano i temporali, rivoluzione autovelox, mai più pattuglie nascoste. Partita la procedura per regolarizzare colf e badanti, si pagano 500 euro per ciascun lavoratore, dal 1 settembre la presentazione delle domande. Un sito permette di vedere come saremmo con qualche chilo in meno, basta inviare una foto e il gioco è fatto, a Riccione è eletta la più bella donna rifatta d'Italia. Ditemi l'indirizzo del sito, assolutamente, anche il regista ha detto lo smilzo, qui ha bisogno di questo sito, quindi captate dai titoli di TG5, bello, ci ha divertito, qual è l'indirizzo di questo fenomenale sito. E adesso i titoli della 7. Italia e Malta si rimpallano le responsabilità sui mancati soccorsi degli oltre 70 immigrati che sarebbero morti in mare a Lampedusa. Siamo tornati ai tempi della Shoah, accusa il giornale De Vescovi, e si riaccende la polemica tra governo e opposizione. La crisi colpisce il lavoro degli immigrati, nelle imprese le assunzioni si dimezzeranno. Intanto per Colf e Badanti è partita la sanatoria. 500 euro per la regolarizzazione, lo Stato prevede 750.000 domande. Mai più autovelox affidate a società private, mai più pattuglie nascoste per cogliere in flagrante gli automobilisti dal piede pesante. La direttiva del ministro Maroni emanata a ridosso dei primi rientri dalle vacanze. E al via domani il campionato di calcio, un torneo con meno stelle, i pronostici danno Inter e Juve davanti a tutte. E contro i violenti da stadio arriva la tessera del tifoso, ma solo dal 1° di gennaio. Vorrei che per presentare la prossima ospite arrivasse una colonna sonora appropriata. Candida Morvillo, direttrice, nume tutelare, musa di Novella 2000. Buonasera a tutti, una presentazione con i tromboni. Allora, eccoci qui, Candida, l'unica persona che può veramente raccontarci cosa succede nella politica italiana, perché ormai la politica si è mangiata lo spettacolo ha mangiato la politica, e quindi l'unico modo per capire che succede, per decrittare la realtà, è Novella 2000. Cosa c'è nella pietanza dell'ultimo numero che hai mandato in edicola questa settimana? Beh, insomma, ci sono un po' di cose che hanno a che fare con la politica, caro Telese. Per esempio, mi ha molto sorpreso ricevere una lettera del ministro Bondi, il quale mi dice, caro il nostro ministro Bondi, il quale è stato fotografato con maglietta bagnata e finalmente che bacia la nuova fidanzata Manuela Repetti, e lui mi ha scritto questa lettera, mi diceva, direttore... Cos'era che non andava bene, la maglietta bagnata o il bacio? No, dice, se lui si era offeso, perché io ho definito l'onorevole Repetti la sua nuova accompagnatrice. Cioè, lui ci teneva a farmi sapere che la donna che ama e con la quale ha intenzione di mettere su famiglia. Ah, la quindi seconda. Era anche esatto, lui. Quindi la presentazione ufficiale è stata fatta sulle pagine di Novella 2000. Beh, ma quindi è un laticlavio, cioè una celebrazione, non è una lettera di precisazione. Lei dovrebbe ringraziare Bondi. Io che dallo status sono di molto grata. Cassazione coniugale addirittura. E che cosa, com'erano queste foto oltre? Perché io non le ho viste, vede? Dunque c'era Bondi in acqua che faceva il bagno con la maglietta, quindi un po' maglietta bagnata e effetto vedo e non vedo. Effetto vedo e non vedo, e poi baciava questa, insomma, questa sua fidanzata con grande trasporto, una cosa molto romantica, molto, insomma, la Baglioni, no? Quella sua maglietta fina, questo piccolo grande amore, una cosa molto tenera. Quanto vale un servizio così? Erano foto che costavano molto poco perché erano cosiddette in concorrenza, cioè significa che le hanno fatte molti fotografi e quindi costavano poco, ecco. C'era una grande offerta. Quindi ho capito, beh, allora vuol dire che Bondi ormai è diventato anche lui un oggetto di paparazzamento. Beh, sicuramente, poi da poco lui si è divorziato, ha divorziato dalla moglie che vive in America, insegna all'Università di Boston, quindi insomma... No, era una relazione difficile perché non potendo lui prendere l'aereo andava in piroscafo e ci metteva un mese, credo. Ci metteva un sacco di tempo, però ultimamente era riuscito a guarire questo problema, infatti sempre Novella 2000 aveva raccontato anche... insomma, le terapie psicologiche da questo psicologo che aveva affrontato proprio per riuscire a risolvere, insomma, tutte queste, questa piccola, ah, questa la paura fobia dell'aereo. Certo. Senta, e invece ci dica altre cose politiche che si capiscono dal suo osservatorio. Per esempio, Noemi ha fatto questa passeggiata a Porto Rotondo, è ritornata su tutti i giornali. È veramente ancora, come dire, un obiettivo di prima scelta? Ormai per essere un obiettivo di prima scelta deve fare le vacanze davanti a Villa Certosa. Noemi è stata un po' travolta dalle altre signorine che sono arrivate dopo e che come dire, hanno fatto eruzione sulla scena politica in maniera decisamente più evidente. Per cui insomma Noemi cerca di essere nei posti dove la si nota di più e quindi si è presentata lì di fronte a Villa Certosa, stavolta con un nuovo fidanzato, un caramba boy, pure questo. E l'altro era finto, però, almeno a leggere Novella 2000, è vero questo? Dunque, ho letto una sua intervista su Novella 2000. Domenico Cozzolino aveva poi raccontato che insomma avevano voluto fare uno scoop ma non erano proprio fidanzati, per cui appena passate le elezioni si erano consensualmente salutate. Anche adesso invece sta con un altro, ma lei dice che insomma è solo un flirtino, lui che la vuole sposare, insomma fanno un po', sono diventati una coppia da reality, ma forse hanno ormai poco a che fare con la politica. Sono arrivate le da Dario, le posso anticipare una cosa che sarà nel prossimo numero di Novella 2000, perché se in questa spiaggia della Costa Smeralda si è sfiorato l'incontro tra Noemi e le due figlie di Berlusconi, Barbara ed Eleonora, l'altra sera si è sfiorata una rissa tra la Daddario e Valeria Marini. Ma che perché, povera? Succede perché quando la Valeria Marini si è accorta che la Daddario stava entrando nel locale dal quale lei era appena uscita, è tornata indietro perché voleva menarla. Ma perché? Daddario è andata in giro a raccontare così che lei ha abitato con Valeria Marini, e la Valeria Marini dice che con la Daddario lei neanche la conosce. Ho capito. Senta, dice, ma lei ha scritto un libro in cui per prima, antiveggendo i tempi, ci parlava di una Repubblica delle Veline. Ha spiegato anche un po' il sistema. Ecco, ma come funziona questo passaggio? Come si riesce a monetizzare l'improvvisa celebrità? Cioè, pochi mesi fa non sapevamo neanche chi fosse Noemi, adesso è comunque una persona che attira una nuvola di paparazzi, ma riuscirà, come dire, a consolidare, a far fruttare questa notorietà? Vale, che cosa fa uno le serate? Cosa può farci? Beh, fanno le serate, le sfilate. Noemi, per esempio, tra qualche giorno tornerà a Porto Cervo per una sfilata. E ce ne sono altre, per esempio appunto Patrizia Daddario ha presentato uno spettacolo in un locale notturno di Parigi, quindi ovviamente è stata pagata. Quindi la celebrità si trasforma immediatamente in soldi nel tempo dei media. Il problema è quanto, per quanto tempo la celebrità è anche questa celebrità è anche una macchina da soldi, perché poi queste ragazze vengono rimpiazzate da altre provenienti da scandali più freschi, cioè tutte queste che diventano famose causa scandalo scandaletto, insomma, poi vengono rimpiazzate immediatamente dallo scandalo, dalle ragazze dello scandalo più recente. Insomma, finora non ci ricordiamo di vallette che poi siano durate nel tempo e che siano nate con un qualche scandalo grosso. Beh, le letterine. Le letterine non erano coinvolte in nessuno scandalo, piuttosto la Gregoraci che fu coinvolta. La Gregoraci ha iniziato una carriera, è diventato un testimonial. Ma lei fu poi tra l'altro assolta, cioè lei fu coinvolta in questo scandalo, anche quello politico, perché insomma, sì, la prima Vallettopoli. Sì, era la prima Vallettopoli, dopodiché insomma il fatto non sussisteva e tuttavia lei da allora è diventato un personaggio sicuramente famosissimo, popolare. Poi ha sposato Briatore, ma insomma bisogna anche dire che con Briatore era fidanzata da prima, quindi è un caso un po' particolare, quindi dura perché ha una storia che insomma va anche al di là di quella. Quindi diventano meteorine, nel senso che corrono il rischio di sparire. Spariranno come spariscono quasi tutte, quelle che durano sono pochissime. Se vediamo le donne che fanno televisione oggi, le contiamo, sono alla fine forse 10 e sono magari sulla cresta dell'onda già da qualche anno, quindi è molto difficile avere qualche new entry. Adesso per esempio è molto promettente la Canalis, che sembrava un po' caduta nel dimenticatoio, perché grazie all'effetto Clooney, e qui siamo ancora al paparazzismo, ritorna in prima linea. Ma sicuramente io credo che se fossi un dirigente televisivo penserei a proporre alla Canalis insomma uno show di prima serata, insomma qualcosa che sicuramente attirerebbe il pubblico, l'attenzione. Poi bisogna, però funziona così. Candida. Ecco, e visto che hai evocato Valeriona, volevamo darti una chicca, sicuramente forse l'avrai sentita, ma in quest'estate in cui l'inno è tornato importante, noi abbiamo l'inno cantato da lei, da Valeria Marini. Fratelli d'Italia. Va bene? Sì. No, la rifaccio, scusi, purtroppo vado? La faccio un pochino più da inno. Non ho, perché non la conosco l'intonazione. Faccio solo la prima parte, cioè la sole non la conosco. Ci siete? Vado? Non sento? Pronto? Sì. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo principio, se ci incala la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, e Dio la creò. Parapon, parapon, viva l'Italia! Hai visto, Candida, anche il poropopo è una grande donna di spettacolo, perché... È bravissima. Valeria è la numero uno. Vale ancora molto? Beh, Valeria sicuramente sì, perché ha la straordinaria capacità di risorgere sempre. Ma sì, ma è sempre famosa. Sono 20 anni che è famosa, poi in particolare nessuno si ricorda cosa abbia fatto per diventarlo. E tuttavia, ecco, Valeria Marini... Desta sempre un grandissimo interesse, continua a guadagnare un sacco di soldi appunto con le sfilate, le serate, le ospitate, le discoteche, le presentazioni, facendo l'opinionista in televisione, anzi la guest star nei programmi televisivi. Insomma, un po' il modello di irraggiungibile di tutte queste ragazze che cercano la gloria. Certo. Volevo chiederti un'ultima cosa, la sinistra è poco paparazzata, perché? Perché non li andate a cercare, forse no, siete... fanno vacanze tristissime, Terese. Ma no, ma non mi dica, ma cioè... fanno vacanze tristissime, cioè le potrei raccontare, ce ne sono, ma gliele portano le foto almeno, cioè perché lei non ma ci spara, perché sono foto insignificanti. Mi dica Bersani, no. Perché cioè lei non è che forse è troppo vicino, cioè perché non ci ha dato un bagno di Bersani? Perché, un ombrellone. Perché Bersani, cioè, non si fa neanche beccare mentre, non so, si cambia il costume in barca, cioè quelle cose che insomma scappano a qualunque italiano medio. E allora questo ci fa crescere la stima di Bersani, no? Scherzo. Beh, ma, no, perché magari se ne stanno, non so, su qualche spiaggia, non vanno nelle spiagge dei VIP. Ma questo è un altro pregio. Ma non sono come Casini, per esempio Casini, cioè, c'è un'inflazione di fotografie che c'è lui a Milano Marittimo su una spiaggia di VIP, nella palestra di VIP dove vanno i tronisti, e c'è quindi continuamente, se le chiamo qualunque agenzia fotografica, possiede 1 milione di foto di Casini che fa esercizi di tutti i tipi. Ecco, e quindi invece questi qui non fanno assolutamente niente. Ma non sarebbe curioso allora anche vedere dov'è la vacanza di Bersani? Non è che voi siete sbilanciati nel centro-destra e non ce li fate vedere questi leader di centro? Che ne so, Franceschini, no, che si sparge la crema abbronzante, perché lei lo censura? Ma perché non mi arriva nessuno di sinistra. Che cosa le è arrivato di Franceschini quest'anno? Che cosa mi è arrivato di chi? Di Franceschini. Ma niente, nessuno sa dove sia in vacanza Franceschini. Cioè, probabilmente passerà agosto chiuso in casa, cioè non c'è modo di... E Di Pietro, che un anno fa aveva fatto la trebbiatrice, aveva stupito tutti, neanche no, Di Pietro è pervenuto. Quest'anno ha risparmiato anche sul grano. Sui lavori del campo, quindi se ne sarà rintanato in casa anche lui. Ma lei, se aveva Di Pietro, lo pubblicava? Ma insomma, dipende da quello che faceva, perché di nuovo a zappar la terra, insomma, poi mi sembrava anche... fin troppo edificante, perché questo che passa, mi auguro per lui che sia andato, non so, alle Maldive, sia stato a Las Vegas, abbia fatto qualcosa di più divertente. Vabbè, però voi omologate gli standard, se non è nella palestra dei tronisti, questo mi stupisce, Candida, se non è nella palestra dei tronisti non lo pubblicate. Ma è che i fotografi, cioè, non ci spendono neanche la benzina del gommone, capisce? Okay. Cioè, perché se loro mi vanno a fotografare, dico per esempio Rutelli a Filicudi, del quale mi hanno raccontato le vacanze, pare che siano tristissime, perché sono faticosissime, cioè sono sempre lì a scarpinare a piedi, non si prende il cellulare, cioè c'è questa spiaggia tristissima con i lettini tutti storti, su questi scogli tutti storti, caro Telese, cioè, ma che fotografia vuole che facciano questi poveri paparazzi? Io gliela pago 2 lire, loro non ci danno. Allora, e invece Berlusconi e Certosa adesso quanto vale? Ma Berlusconi e Certosa dipende, credo niente, perché Berlusconi alla Certosa ormai farà il nonno, cioè al limite si aggirerà con questi con il gelato. Lei che cosa avrebbe dato per avere il servizio di chi con la foto di lui e dei 4 figli? Un occhio? Una mano? Ma francamente, ma anche no. Non l'avrebbe pubblicato? Io l'avrei pubblicato volentieri, però insomma, cioè, cosa avrei dato? Non lo so, non lo so, cioè, non si sarebbe stracciata, un po' troppo patinato, posato, ecco. Ho capito. Cioè io gli avrei dato molto, ma gli avrei chiesto di essere un pochino più naturale. Va bene, erano tutti troppo in posa. Allora, grazie Candida Morvillo. Quindi sul prossimo numero c'è questa cosa che non ci dobbiamo perdere, e però non c'è Bersani con i mutandoni. Questo un non po' l'abbiamo trovato. Mannaggia, mi dispiace. Va bene, grazie Candida. 824 0024 per intervenire. Spartaco da Verona. Sì, pronto? Sì. Siete che abbassa un po' radio. Niente, io volevo intervenire sulla cosa dell'integrazione sull'Italia. Certo. Io sono straniero, venuto dall'Albania 11 anni fa. Come tutti i poveracci, anch'io con la gomone, cioè, quelli che vengono e vanno. Qua in Italia io sono integrato, credo di sì, molto bene, come tutti i miei paesani. E volevo aggiungere una cosa sulle cose che dicono e fanno qua in Italia. Cioè, la prima cosa, noi siamo ospiti un altro paese, no? Sì. E ritengo giusto a io a rispettare i vostri leggi, certo, le vostre tradite, mm-hmm, come le mie tradite, li rispetto, io li tengo a casa. Voleva dire, da noi ci sono anche i musulmani, i cattolici, anche ortodossi, in Albania. Sì. Siamo un paese un po' mischio. Però non esistono queste cose, si rispetta la persona, non si rispetta perché sei un cattolico, sei un musulmano o sei un ortodosso. Senta, lei è regolare oggi? Certo. È venuto da clandestino? Certo. E quando è diventato regolare? Dopo 2 anni. Che cosa ha da dirci sul reato di clandestinità? La clandestinità è una cosa che... Prima di tutto, uno che scappa dal suo paese scappa per ragioni economici, politici, non so. Certo. La seconda è che qua in Italia è un po' esagerata. In senso che troppo libertà. Ognuno qua poteva fare quello che voleva. Quindi lei è un ex clandestino che dice ci vogliono regole più severe. Beh, questo è interessante. Certamente. È la dimostrazione che la Zazzara si sentono tutte le opinioni. Grazie Spartaco. E sentiamo Gaspare da Bergamo. Buonasera. Innanzitutto volevo complimentarmi con lei perché tiene la trasmissione molto, molto più allegra del suo collega. Mi dispiace, ma devo dirlo. Allora, ma Cruciani è un maestro irraggiungibile. Cruciani, non metteteci l'uno contro l'altro. No, le tolgo la parola. Sto scherzando. Poi un siciliano che chiama da Bergamo. Perché allora, non sta in Sicilia? Sono un siciliano che insegna a Bergamo inglese da 25 anni. Adesso mi sto godendo la frescura di Mico. È clandestino o è andato col passaporto? No, io quando sono andato io, pensi che la Lega era al 4% e avevo fatto degli articoli e mi avevano anche invitato per probabilmente avevano bisogno di figure. Vabbè, comunque non è per questo che chiamo. Io chiamo semplicemente per dirvi che mi sto godendo la frescura di questa Milo alle pendici dell'Etna a 500 metri da Franco Battiato e sento anche queste energie positive che vanno al di là di quelli che possono essere i localismi e le stupide cose che ho sentito poco fa. Onestamente, io sono sposato con una ragazza, con una signora, adesso abbiamo 50 anni, inglese, che insegna all'università esattamente come il professor Prosperini. Io insegno inglese alle superiori, sono docente a contratto all'Università di Bergamo. Abbiamo 2 bellissimi figli anglo-siculi celti bergamaschi ed ogni settimana, stia attento, ogni settimana noi mangiamo il kebab. No! Sì! No, se Prosperini per strada magari. Non vorrei che adesso la bistecca alla milanese gli vada di traverso al dottor Prosperini. La cotoletta. Allora, guarda Gaspare, questa telefonata mi ha dato una serie di dolori. Il primo ero ben disposto a chiamarla da Bergamo, poi scopro che è siciliano, poi che addirittura sta mischiando sangue e razze e poi dopo mangiare kebab. No, guardi, questo non è possibile. Prende anche lei una cotoletta. No, noi un bacio a Francesco Merlo che veramente si è prestato a questa robaccia qua con Prosperini, abbi pazienza. Onestamente io non l'ho retto, ho avuto un senso di vomito che non era legato al kebab comunque. No, ma vede, qui la Zanzara ci sono opinioni forti e Merlo è un combattente così come Prosperini. Grazie. E io lotto allora... insieme a lui. Allora, vuole sentire un pezzo di ciao, ciao, ciao di coso, Fratelli d'Italia? Allora mi canti dica, un pezzo di inno. La seconda strofa, quella che dice la russa non conosce nessuno. Fratelli d'Italia, Italia Sesta, il municipio di città. E poi? Stringiamo. Noi fummo dato il motasse spiro, cioè orba di tanto spiro. Ma che sta dicendo? Orba di tanto spiro. Lei ha contaminato. Sicuro però che mi ricordo bene. Ma quella è Manzoni, è il 5 maggio. Sono rimasto molto male. Mi dispiace. Sto scherzando. Buona serata e auguri. Buona serata, grazie. Allora, abbiamo in linea un altro ascoltatore, Irene da Massa Carrara, intervento sul Burkini. Sì, buonasera. Sì. Dunque, volevo fare così un breve commento sul Burkini. Io sono stata più volte in paesi di cultura araba, ho frequentato spiagge miste e devo dire che ho invidiato queste bellissime donne con i Burkini. Che se avessi potuto non me ci si metta pure punto. Lei, ma no, non ci si metta pure lei. Non mi dica che si vuole mettere quello scafandro, per cortesia. Non è uno scafandro. Io penso che quei signori che sono intervenuti prima probabilmente non hanno mai indossato, toccato un burkini, perché è veramente un costume confortevole. Vabbè, Irene, su quelle spiagge, ma lei se lo mette o no? Beh, e allora non mi dica che è confortevole. No, io sono andata in giro vestita perché guardi, odio il caldo. No, anche lei per punizione, anche lei la penitenza. Avanti la seconda strofa dell'inno. No, non la so, non mi faccia cantare. No, vada. No, davvero. Tornando alla cosa seria. Non la so. La terza. No, guardi, stasera io ero che stavo cucinando, ho sentito tutte quelle idiozie una dietro l'altra sul burkini. Io penso che tutto sommato la vera apertura mentale sia il rispetto delle culture. Io ho una carissima amica di... Grazie Irene, ma perché cucinava così presto? Perché... E non è che per caso era kebab? No, adoro il kebab, devo dire che mangio... Io vivo a Londra, mangio il kebab a Londra. Per strada pure lo lei? Lo mangio qui a Bagnone. Anche perché... a Bagnone? Sì. Vabbè, ma una serie di provocatori stanno chiamando. Grazie Irene. Arrivederci. A presto, ma cosa stava preparando? Una frittata e fiori di zucca. Oh, ma quella è consentita, bene, grazie. Sì. A presto, Bruno da Schio. Sì, buonasera Terese. Buonasera. Bruno da Schio. Buonasera. Allora, intanto le canto già in anteprima la canzone con cui ho addormentato le mie due bimbe negli ultimi anni. Vada. Questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao. No, non me la faccio cantare, è una canzone politica. Benissimo. Allora dica un'altra cosa. Con questa canzone io ho addormentato le mie indottrinate fin dalla nascita, voi comunisti. Esattamente. Un bel canto di libertà e di passione. Seconda cosa, un plauso a tutte le donne italiane, quelle che studiano, si impegnano, sono dirigenti aziendali, studiano la musica, si impegnano a teatro, fanno il cinema. E poi purtroppo la televisione e i media in generale danno una rappresentazione della donna italiana scandalosa. Le donne italiane non sono le Verine, non sono la Marini, non sono quelle quattro stronzette che vediamo in TV. Le donne italiane sono forti, possono cambiare l'Italia. Le donne italiane devono insorgere in questo momento. Sono loro che possono decidere il futuro del nostro paese, non quelle quattro. Allora a questo punto andiamo con Zucchero, com'è? Donne. Tarara. No, e non è tarada. E lei proprio mi sbaglia proprio sulla filologia. E turudù è un'altra cosa, sentiamolo. Tarada turudù, Terese. Un plauso alle donne italiane, quelle vere. Vai, parli. Parlate delle sì, donne vere. Le donne. Donne turudù. In cerca di guai. Donne e borsa! Rieccoci a Ronzore e io sono molto triste, anzi afflitto, perché l'Antizanzara, il sito che dedica una recensione a ogni puntata, ha una predilezione per Cruciani, diciamolo. Ieri mi hanno pioppato 4. 4 a questa puntata, dopo l'altro ieri ci hanno recensito bene, insomma ci sono rimasto male. Allora sapete che dico, adesso sentiamo un po' un ascoltatore. Paolo da Firenze. Buonasera, Telese. Buonasera. Sono come Paolo sta? Papillo. Paolo Papillo. No, buonasera. Papillo, che sorpresa. No, sorpresa non c'è perché l'hai visto oramai, guarda, siamo diventati persino amici talmente che ci sentiamo, quindi... Non, la sorpresa non esiste perché hanno i miei numeri di telefono, quindi non ce ne sono. Ma lei che è un professionista di inserzione radiofonica si è messo sulla pista di Monza, che sono sti rumori dietro? Dove sta? Sono sotto a un ponte della ferrovia perché sto andando a... Ma come una volta che va in diretta parla dal ponte della ferrovia. Che devo fare? Sono per la strada. Comunque cosa fa nella vita Papillo? Cosa faccio? Chi io è? Facevo... Io sono Paolo Papillo. Lo diciamo agli ascoltatori, è il terrore di tutti i conduttori, è l'uomo che interviene in più trasmissioni in assoluto. Chi è Papillo? No, Papillo è un camionista telese, un semplice camionista. Che e già, purtroppo, già ce lo rende simpatico. Purtroppo in questo momento sono diciamo in cassa integrazione. E Papillo è uno che si è stancato di subire l'informazione in senso unidirezionale, cioè io devo subirmi quello che voi mi dite, che quando mi dite cazzate non posso replicare, e a questo mi è incominciato a dare fastidio qualche anno fa e ho deciso di intervenire in più trasmissioni possibile per rigettare indietro le stupidate che... E allora sentiamola! Una Papilleide. Vittorio da Como. Francesco da Roma. Paolo da Firenze. Paolo da Pisa. Mario da Prato. Giovanni da Como. Fabio da Livorno. Paolo da Firenze. Paolo Papillo. Paolo Papillo. Due considerazioni sulle notizie di oggi. Ha visto? Lei si finge altri per poter parlare. No, Tenese, se mi fa parlare, guardi, io, lei sa benissimo che è partita una polemica nei suoi confronti da due giorni su internet, no? Ecco, allora, di conseguenza. Sì, posso risponderle chi se ne frega, cioè ci sono tante polemiche. Anche chi se ne frega, che c'entra? Io posso anche continuare a fare la polemica, non è un problema, le risponda come crede. Allora, il problema è questo qua: sono stato costretto da questa emittente a cambiare nome, perché non è vero che viene messo il limite temporale di un mese, viene messo il limite a chi dissente da una certa linea in maniera piuttosto energica. Ma lei ha parlato meno di un mese fa? No, Tevese, no. Sì, è così. Ma vabbè, no, lo so, e ora sta riparlando. Ma cioè, lei ha la possibilità di intervenire in diretta nella trasmissione culto della radio italiana e si lamenta che non può parlare. Ma io non sta mi parlando. Lamento, se no giriamo la frittata. Io mi lamento. E allora dica, se... che cosa devi dire di così importante? Non dico nulla, se mi spezzetta... Allora, il problema è questo. Quando viene dato, come fate lo spazio agli ascoltatori, non devono essere le cose indirizzate da un centrale filtro. Perché non aprite direttamente agli ascoltatori? Poi, il problema è questo qua. Non è... anche affrontare ma le varie tematiche... Ma sa quanti chiamano? Ma guardi, a me Telese di queste cose qua, penso che lei abbia poco da insegnarmi, E io non voglio insegnarle niente, ma è lei che vuole insegnare qualcosa a noi. Se non c'è un centralino, non si potrebbe dare spazio alle telefonate. Il centralino è un filtro politico, non è un centralino che altro. E allora comunque... è un filtro politico che la fa parlare, però è lei però non ha che cosa ha da dire, perché sta solo lamentando. Cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare di 70 persone annegate oggi ancora e ne stiamo parlando di Sicilia? Certo, vogliamo parlare di questo? Vogliamo parlare che oramai siamo in mano a una banda di fascisti, compresi leghisti e berlusconiani? Vogliamo parlare che lei andrà al fatto e in 10 anni che è stata al giornale non si è mai occupato di Berlusconi né dei suoi processi, né la condanna di... Ah, era questo parlare? Che voleva dire? Parliamo di quest'ultimo tema. Che cosa parlare? Ha contro di me? Perché lei mi sembra, ecco, vede qual è il problema. Voi avete bisogno di aggredire, se no non vi sentite gratificati. No, è questo no, che esatto, ma io sono orgoglioso di aggredire, sa perché? Perché oramai c'è rimasta l'aggressione come legittima difesa, non c'è rimasto altro. Quando lei vuole dare a me del berlusconiano, io che vado al fatto, ma capisce che è fuori dal mondo. No, io non do lei Papillo. Del berlusconiano, lei ha lavorato 10 anni per i giornali, io ne prendo atto, poi saprà lei se è berlusconiano. Ne prenda atto, certo. Io penso che un giornalista debba tendere all'indipendenza e non debba dipendere da chi gli paga lo stipendio, mentalmente e psicologicamente. Quindi penso che questo, chiunque faccia qualunque lavoro, non sia proprietà di chi gli paga lo stipendio. Grazie a Dio esiste questa civiltà in questo secolo, Papillo. Sì, comunque, guardi, ho capito. Prego, lei è entrato. sta parlando, c'è simpatico, ma che cosa vuole dire? Lei non è antipatico fondamentalmente, perché non la conosco neanche, quindi non è... Il problema io ce l'ho con voi dell'informazione, perché non avete il coraggio. Allora, io non ce l'ho con lei. Quando fanno le conferenze stampe del Presidente del Consiglio, non c'è un reggimicro... Conferenza stampa, non c'è un reggimicrofono che fa una domanda. Ci sono cittadini che ne sanno molto più di suoi colleghi. Quindi perché allora e basta, voi siete praticamente dei eccolo che si arrabbia. Cosa siamo? No, voi siete più altro che dei miechi del regime nel 90% dei casi, elevando poche case. Allora, mi fa piacere che siccome... Ecco qua, siamo dei servi del regime. Allora, ho detto degli echi di regime, è differente. Ah, degli echi, quindi degli ancora echi. Peggio. Poi ci sono anche i servi, sono tanti servi. Non è che sono pochi. Questo sicuro. Esisteranno anche fra i camionisti, come esistono i bravi. C'è poco da servire, perché tanto noi siamo praticamente come i raccoglitori di pomodori, quindi noi purtroppo siamo schiavi per obbligo. Ecco, di conseguenza è differente. Quando uno è schiavo per scelta è un'altra cosa. Va bene, Paolo, ma c'è qualche trasmissione in cui hai parlato così a lungo ultimamente? No, ma guardi, io le dico, ci sono altre trasmissioni come Radio Anch'io con quale ho un buon rapporto, ma io non ce l'ho con voi, perché sinceramente è anche superfluo. Io ce l'ho di genere con un'informazione istituzionale del quale questa radio fa parte, quindi non c'è un fattore specifico. A me l'informazione istituzionale per benissimo, ma non vede quanto è libera questa informazione, non vede quanto è libera questa trasmissione, parlano tutti, dicono qualunque cosa. Credo che questo sia la bandiera della zanzara, qualunque cosa in questo programma. Ho sentito anche in questa puntata qualunque opinione su tutti i temi. È stata libera perché c'è stato anche un sommovimento, non è stata libera per scelta, perché si ritirava avanti. Vabbè, allora è stata libera perché c'è un sommovimento. Grazie Papillo, grazie il prossimo ospite. Buona presto, serata. Michele Anselmi. Eccomi, sono qua. Allora Michele, tu sei la penna più escavatrice dei difetti, le virtù, i vizi e le glorie dei VIPs, e allora volevo chiederti il focus su un VIP importante che è Brad Pitt. Che gli è successo quest'estate? Beh, non lo so, io ho come la sensazione che Brad Pitt sia impazzito, nel senso che da qualche settimana, o per una malizia delle agenzie, no, dei giornalisti, o proprio perché così lui ha cominciato a tirare pugni di qua di là, prendersela con... Intanto quanto sarà stato contento George Clooney che gli ha fatto l'outing, lui il primo caso di outing affidato ad altri, cioè gli ha detto che è gay. Ma è strano infatti, perché i due hanno fatto almeno 3 film insieme, erano amici per la pelle, amici per la pelle, ma insomma una cosa è un film. Una cosa è fare come succedeva nel vecchio film di Carlo Verdone, no, Borotalco, dove Angelo Infanti, Manuel Fantoni, diceva al povero Verdone: oh, ma lo sai che John Wayne è frocio? E quello diceva: no, non me lo di, pure Burt Reynolds, no? Burt Reynolds, ma insomma una cosa... Ma erano veramente, tu sei un mago del cinema, un'enciclopedia, sia Burt Reynolds che John Wayne lo erano? Ma no, l'unico che è stato costretto per tanti anni a fingersi macio, addirittura arrivando a un matrimonio, fu il povero Rock Hudson, che poi no, diventò... Morì di AIDS. Ma si diceva che anche le Claire Gable... Si dice anche di Claire Gable, non lo so, ma si era detto anche di Richard Gere, se per questo. Anche sono... Richard! Anche e non mi Richard. Fa fare come Fantoi. E poi ha attaccato anche Tom Cruise. E poi attacca Tom Cruise, sembrano tutte cose un po'... E gli ha detto praticamente che dopo... No, gli ha detto che il film Valkyrie è una cosa ridicola, perché siccome Brad Pitt ha fatto un film con Tarantino che si chiama... Bastardi senza gloria, e dice che quello è il film fondamentale, definitivo sul nazismo, per cui qualsiasi altro film che sia stato fatto precedentemente racconta solo fesserie. Hai capito? È perché lo ha fatto lui. Va bene, senti, andrai a Venezia, cosa ci dobbiamo mettere sul taccuino? Quali sono le cose da vedere, oltre al bellissimo film di Michele Placido sul 68 che ci intriga già da ora? Beh, io non so, sai, c'è un eccesso di film italiani, per cui c'è anche il rischio che in questa retorica cinepatriottica si esageri un po'. Pensa, 22 film italiani nell'intera mostra. Detto questo, può darsi anche che i 4 film italiani in concorso e anche gli altri siano interessanti. Certo, fa un po' sorridere, se posso permettermi, la girandola, il valzer, come si usa dire oggi, di titoli del nuovo film di Citto Maselli, che è una meditazione. Ne ha cambiati già tre. Ne ha cambiati. Ebbene, non sarà un, se è una meditazione su una sinistra che non c'è, non sarà un segnale. Non lo so, come avrebbe detto. Quali sono questi titoli? È indeciso a tutto. Indeciso. Quali sono i titoli? Il primo era Il fuoco e la cenere, però sembrava troppo bello, metaforico. Poi era diventato Anni luce, però non si epocale. Capiva bene. E poi è diventato Le ombre rosse, attenti con le. Non perché... ombre rosse. No, per non confondersi con John Ford. Perché evoca di più. Come sai, tutto il film è una meditazione anche un po' grottesca, temo, attorno a un centro sociale che diventa... Di nuovo, pure l'altro. Eppure lì c'è un centro sociale che diventa una casa della cultura con un intellettuale che sembra un po' Trentin, che è interpretato da Roberto Erlitzka. Oh mamma mia, vabbè, vedremo anche questo con curiosità. Grazie a Michele, bene, magari saluti. Ci racconterà da Venezia. Saluti, sentiamo Ignazio da Palermo, ultimo ascoltatore, quasi, pronto? Eccomi qua, sono io. Mi Buonasera. Sente? Sì. Mi sente? Io credo di intervenire un po' fuori tempo, perché vedo che avete dato un taglio alla trasmissione abbastanza giocoso, mentre io invece mi riferivo a quello che è stato detto prima a proposito di questi poveracci disgraziati che sono morti in mare. E volevo, rispetto a quello che ho sentito, guardi, io mi sono chiesto per tutta la mia vita come è stato possibile una situazione, un avvenimento come l'Olocausto in un paese come l'Europa civile e in Germania, la patria di Kant, di Leibniz, di Wagner. E mi sono sempre chiesto come mai è stato possibile, come mai. Ebbene, io dalle cose che ho sentito nella vostra trasmissione ho capito perché, ho capito che è veramente possibile, nel senso che gente come quella che le mandava gli SMS sul nutrire la popolazione ittica, oppure quel tale Prosperini, non so come si chiami. Sì, il nemico del kebab. Del kebab. Sì. Ora, questa gente, secondo me, è disponibilissima ad aprire dei lager. Io sono non lo so, ora doveva chiederlo a lui, io non voglio... Lo so, ma io non lo sto chiedendo a lei, sto facendo una considerazione di carattere generale, che può essere raccolta dalla gente come vuole. Comunque, io, secondo me, in questo momento noi corriamo questo rischio. E grazie, questo è un Ignazio, rischio che io non mi sento di grazie mille. Allora io ringrazio per l'ultima volta la possente redazione che ha sostenuto questo programma, la mitica Gloria Guerrera, Antonella Migliaccio, su da Milano, Sara Sprafico, veramente una colonna, e i registi Valeria Bernardi e Alessandro Chiappini, detto il magrissimo, dalla prossima settimana in conduzione Alessio Maurizi.